La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ed eccoci qui puntuali come sempre all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, La Rosa Purpurea, che come sempre vi porta dentro i grandi schermi d'Italia per tutte le novità cinematografiche e non solo sui grandi schermi, ma anche per il meglio che c'è sul piccolo schermo. Ospiti, interviste, tanti film, alcuni molto interessanti. Anche questa settimana sarà con noi Gianni Di Gregorio, lo ascolteremo in un'intervista con Giorgio Colangeli, protagonisti insieme al compianto Ennio Fantastichini di Lontano Lontano. Ascolteremo anche un piccolo iniziale assaggio di una bella e lunga intervista che ci ha rilasciato Carlo Verdone. Settimana prossima intervista integrale perché esce il suo nuovo film Si vive una volta sola. Ma vogliamo cominciare però con un grande classico della letteratura per ragazzi, un grande classico di Jack London, Il richiamo della foresta. Diventa un film con Harrison Ford protagonista insieme ad Omar Sy, lo dirige Chris Sanders e l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Lo Yukon è un luogo pieno di insidie e non sai mai cosa ti aspetti. Sono venuto fin quassù perché non volevo stare con nessuno e poi ho incontrato Buck. Lui non era un cane come gli altri. Era stato viziato. Fuori! Andiamo, Buck! E aveva sofferto. Andiamo! Ma non l'avevano sottomesso. La storia è nota. Chi non l'ha letta l'ha vista sullo schermo con altri 4 adattamenti per il cinema e diversi per la TV del racconto Il richiamo della foresta di Jack London. Buck è un cane, uno di quelli giganti che negli anni della corsa all'oro valevano tantissimo perché capaci di guidare le slitte. Per questo il cane viene rapito in California e finisce a consegnare la posta nel gelo delle terre a 2 passi dall'Artico. Non so da dove tu venga, ma so dove sei adesso. Benvenuto alla fine del mondo. Diamogli solo un minuto. A quanto pare è la prima neve che vede. Che ne pensi di un'avventura al di là dei confini conosciuti? Io e te potremmo andare dove nessuno è mai stato prima e vedere cosa c'è. Sono avventure e disavventure quelle che toccano a Buck, prima alla slitta postale guidata da Omar Sy, poi come compagno di viaggio di John Thornton, eremita dedito all'alcol dopo la morte del figlio, non cercatore d'oro, interpretato da Harrison Ford. Sarà con lui che andrà in quelle terre selvagge che lo riporteranno alla natura e a sentire il richiamo della foresta che è il titolo dell'opera. Che ne dici, Buck? L'avventura di una vita. Il protagonista del racconto è il cane, lo è anche al cinema, ma nei tanti adattamenti spesso il posto di Buck non è stato sempre centrale. Lo è qui, anche se è molto ampliata la figura di John, il suo ultimo padrone umano. Non è però invadente questa presenza, anzi gli uomini sono buoni comprimari per l'animale, che come gli altri del film è stato creato con immagini rielaborate al computer. Questo ha aggiunto espressività e per fortuna non gli ha dato la parola, come in altre esperienze simili e recenti di computer grafica al cinema, in un film per famiglie. Questo, diretto dal Chris Sanders di Dragon Trainer e firmato Fox già dentro Disney, è indubbiamente un film per tutti, addolcito nei lati più violenti della storia, lineare, con una netta divisione fra bene e male, senza sangue e con anima animalista, ma capace, nonostante questo, di emozionare e di far vedere paesaggi meravigliosi. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Il richiamo della foresta, film family di questa settimana, film tra avventura e appunto classicismo letterario. Noi diamo un'occhiata alla classifica perché proprio Il richiamo della foresta è uno dei film di nuova uscita meglio piazzati nelle primissime giornate di programmazione, al 4º posto, con Gli anni più belli di Muccino che riguadagna la leadership dopo che il film sul concerto della PFM di De André, di Walter Veltroni, che abbiamo sentito ospite la settimana scorsa qui alla Rosa Purpurea, nei 3 giorni centrali della settimana ha fatto 1 milione di euro. È stato un successo enorme, ma del resto il film lo meritava. Quindi Gli anni più belli di Muccino torna primo, Bad Boys for Life secondo, Parasite continua ad andare fortissimo anche in questa sua reprise dopo Oscar, e invece dietro Il richiamo della foresta partono Sonic e Cattive acque, film di cui parleremo fra poco. Adesso linea alla viabilità e poi ci trasferiamo in un hotel francese parigino molto molto particolare, l'hotel degli amori smarriti. La rosa purpurea. Molto bene, le riassumo la situazione. Lei ha spinto in braccio al suo maturo marito il suo primo amore e ne approfitta per portarsi a letto lo stesso marito che però ha l'età di quando l'ha incontrato. Per una volta che mi concede un piccolo capriccio. Maria, abbiamo la lista di tutti i tuoi capricci. Come avete la lista? Allora, chi è chi? Oh, il cugino Pierre. Chi è che va a letto col cugino dopo i 14? Lo fanno tutti. E avete sentito una clip dell'Hotel degli Amori Smarriti, il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, alla regia di Cristofono Re, nel cast dominante Chiara Mastroianni, premiata con il premio per migliore attrice al Festival di Cannes, dove il film è stato presentato nella sezione Un Certain Regard, e poi Vincent Lacoste, Camille Cotten e anche la rediviva Carole Bouquet, per raccontare una storia tutta immaginaria e tutta vera al tempo stesso. Si apre in una strada di Parigi, si apre con la scoperta di un tradimento, Maria e Richard sono sposati da 20 anni, una sera lui vede sulla notifica del telefonino un amante della moglie che le sta dicendo di amplessi molto molto recenti, la donna in un altro angolo del bagno a far la doccia, torna e lo sguardo fra i due dice tutto, dice che questa storia è probabilmente finita, è sicuramente sconvolta. E allora lei decide di lasciare il loro appartamento e di andare semplicemente attraversando la strada nell'hotel di fronte, dalla quale, dalla camera 212, ed il titolo originale del film è Chambre, appunto 212 nella versione francese, può spiare in qualche modo e può vedere gli atteggiamenti del marito e capire quanto è ferito e quanto è dentro il gorgo di questa situazione. Ma quello che accade in quella camera 212 è strabiliante, perché improvvisamente Maria comincia a ricevere le visite, non si capisce se immaginarie o no, dal passato, di suo marito giovane, dei suoi tanti amanti, della sua volontà, che ha un'impersonificazione carnale molto, molto forte, e comincia a riflettere su se stessa, su quello che è stato e su quello che potrà essere. Noi salutiamo Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, è stata una grande edizione del Festival di Cannes l'anno scorso, perché se ci pensi Parasite, La Belle Époque e devo dire anche questo L'Hotel degli Amori Smarriti è un film di quelli che vorremmo tanto, fammi dire, saper fare anche noi, no? Cioè quei film che poi possono avere delle imperfezioni e tutto, ma che hanno una protagonista straordinaria, una leggerezza che a volte rasenta la frivolezza nel trattare temi seri, temi forti, e un'idea di fondo veramente imbattibile. Ma un po' ci proviamo, perché senza che si siano parlati, insomma, e si siano conosciuti, probabilmente Francesco Amato con 18 regali trova quel tipo di intuizione, no? Cioè la voglia di uscire fuori dal realismo e andare nel fantasy, quando il fantasy è semplicemente il tuo luogo dell'anima, il tuo luogo della mente, cioè un luogo dove poter riflettere su te stesso. Poi ovviamente i toni sono completamente diversi e probabilmente anche gli attori, perché qui c'è una Mastroianni che forse, lasciami dire, non è mai stata così in forma, e non voglio essere maschilista, ma in tutti i sensi, nel senso che è di una bellezza che non gli avevamo mai visto prima, anche e soprattutto perché non nasconde il tempo che passa, ma anzi se lo porta addosso, perché ha una cifra stilistica e una cinematografica e anche nel parlare che è davvero peculiare e che giustifica insomma anche i riconoscimenti che ha avuto. E poi c'è il fatto che siamo in un mondo e in una situazione tale che facciamo fatica a essere consapevoli, coscienti dei nostri sentimenti, e avere un film che in qualche modo ci consente di essere spettatori della nostra storia o della sua storia, ma che in fondo fa riflettere anche gli spettatori, è qualcosa di straordinario, no? Questa finestra di fronte in cui lei vede il dolore, e però all'interno della casa, il dolore che lei stessa ha provocato, e nella sua stessa casa, nella sua stessa camera, invece si mette in scena ciò che lei prova, ciò che lei desidera, ciò che è stato quell'uomo che un tempo lei ha amato e anche tutto ciò che hanno incontrato. Un modo per riflettere sulla vita, un modo per capire anche se si è vissuto realmente o se invece si è perso tempo. Honoré riesce a trovare anche in età matura una felicità di narrazione, di racconto e un coraggio di racconto, perché appunto poi si rifugia in un'idea che poteva essere al limite del umoristicamente involontario, al limite del grottesco, e non lo è mai, invece ha sempre una delicatezza straordinaria, dopo una carriera che invece si era rifugiata nel cinema francese, quello post Nouvelle Vague, che era un cinema molto sentimentale, che cercava sempre di imitare i lecontismi, nel senso di Le Conte, che non aveva mai un'intuizione vera, ma che andava su schemi narrativi e visivi molto scontati. E invece in maturità trova un film che ha un'originalità, come dicevi tu, straordinaria, una delicatezza espressiva e narrativa di altissimo valore, e degli attori che sono tutti in grandissima forma. C'è anche del metacinema, se vogliamo, perché nel film c'è anche Benjamin Bachelet, che di Chiara Mastroianni è stato compagno e che poi ha visto la loro storia finire, che in qualche modo chiaramente dà al film ancora qualcosa in più. È davvero uno dei film più interessanti degli ultimi anni, soprattutto perché in qualche modo apre un genere diverso, che sarebbe bello, come dici tu, che percorressimo anche noi in qualche modo. A me? Ben trovato. Lieto. Il cugino Pierre. M'è passato di tempo. E Gourvin Le Bellec. E Carsten Schubert. Ma certo. Nel 2004. È stata dura per noi passare dall'uno all'altro. Anton, carissimo, il panettiere di Aix-en-Provence, 29 luglio 2007, il giorno della morte di Michel Serrault. L'elenco dei tanti amanti di Maria nell'Hotel degli Amori Smarriti. Noi adesso giochiamo insieme, perché cominciamo subito a farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Sai, quando ti ho conosciuta ti consideravo super strana, ma ora ti trovo fichissima. Vale anche per me. Non sei completamente priva di meriti. Beh, allora, grazie. Dialogo fra adolescenti, ragazze, ragazzine, di che film si tratta? Se l'avete già indovinato e individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, 2 Blu-ray di questo film in palio. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Il cinema americano, cosiddetto di impegno civile, di inchiesta, il cinema che ci ha regalato tanti gioielli nella storia del dopoguerra, ritorna con una firma importante, quella di Todd Haynes, con un cast altrettanto importante: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Pullman, Tim Robbins. Il film si intitola Cattive Acque. Tuo nonno mi ha detto che sei un famoso avvocato ambientale a Cincinnati. Io sono un avvocato d'azienda, le difendo le aziende chimiche. Beh, ora puoi difendere me. Quante ne hai perse esattamente? 190. Secondo te non c'è niente di strano qui? È pieno di sostanze chimiche. Ho trovato dei documenti che non capisco. Stanno nascondendo qualcosa. DuPont sta deliberatamente avvelenando 70.000 residenti da oltre 40 anni. Ti rendi conto? Quindi tu sei pronto a raccontare tutto quello che sai per combattere una delle più grandi aziende degli Stati Uniti come fossi un informatore? Sì. Una storia vera, ancora una volta, alla base di questo Cattive Acque, quella di un avvocato di Cincinnati in carriera, un avvocato che difende le grandi compagnie della chimica, dell'industria, tra le altre anche proprio la DuPont, che a un certo punto cambia casacca, possiamo dire, passa dall'altra parte, imbeccato dal consiglio di una nonna, di sua nonna, originaria di un paesino dell'America centrale, della Virginia, che ha detto a un contadino: chiama mio nipote, lui ti potrà aiutare. Questo contadino cosa vuole? Vuole capire perché le sue mucche muoiono male. Lui le viviseziona una volta morte, trova parti del loro corpo devastate. Tutto viene ricondotto dalla saggezza del contadino all'acqua, ma quell'acqua potrebbe essere appunto una cattiva acqua, come dice il titolo, un'acqua scura, come dice invece il titolo originale, Dark Water, un'acqua che potrebbe avere, come dire, inquinato anche la popolazione del posto. E quello è il momento in cui questo avvocato cambia casacca, appunto, Mark Ruffalo, e diventa il peggiore accusatore della DuPont, vincendo poi alla fine, portando a casa, dopo tanti, forse troppi anni, un risultato importante per tutta la collettività. Boris, si fa presto spesso a dare come capostipite di questa storia, di questa vena sempre inesauribile del cinema americano, Tutti gli uomini del presidente, più recentemente The Post, Spotlight. Devo dire che questo Dark Water ci sta perfettamente dentro. Dirò che a me vengono in mente più Tucker, Un uomo e il suo grande sogno, di Coppola, oppure Promised Land con Matt Damon, perché qui siamo in un altro contesto, secondo me, che è quello dell'America che racconta il suo capitalismo, tra virgolette, dalla parte sbagliata, cioè che prende dei protagonisti che sono assolutamente integrati in quel sistema, che credono in quel sistema e che in qualche modo lo appoggiano, lo sostengono, e che aprono gli occhi e si trovano di fronte a una scelta che sì, forse in un film sembra facile, cioè quella di dover scegliere la verità al posto della convenienza, ma se sei un avvocato di grido, che ha una bella famiglia, che ha un bello stipendio, e ti rendi conto che l'unica opportunità per essere fedele a te stesso e perdere tutto probabilmente appresso a una crociata che durerà anni e che ti toglierà tutto per dare però alla collettività qualcosa, e a quel punto tu, uomo solo, in questo caso Mark Ruffalo, devi prendere una decisione che è una decisione durissima, esattamente come succede nel film di Coppola, esattamente come succedeva a Matt Damon. Sono film più sfortunati di quelli che hai citato tu, perché sono film che curiosamente probabilmente entrano più a fondo nelle contraddizioni del sogno americano e che danno un pochino più fastidio, ma a mio parere sono anche più belli, perché qui c'è questa cosa fantastica, secondo me, che questa storia vera mette di fronte l'industria a cui dobbiamo la padella antiaderente, no? Che in quel momento era l'esempio del progresso che aiutava le famiglie, e dall'altra parte quella stessa industria le famiglie le sterminava. Il racconto però, hai ragione tu, è fatto come il film civile più classico, quindi come Tutti gli uomini del presidente, il caso Spotlight è estremamente documentato, estremamente lineare. Ti colpisce che ci sia alla regia uno come Todd Haynes, che invece è abituato a volare alto, è abituato a non essere legato alla narrazione più secca del cinema civile, però Todd Haynes ci mette la sua zampata, esattamente come fa François Ozon nell'ultimo film, Grazie a Dio, che sembra un film completamente diverso, ma che sente la sensibilità di Ozon esattamente come qui si sente la sensibilità di Haynes. Per esempio il momento in cui c'è Ruffalo che, rendendosi conto del dolore che i suoi ex capi, i suoi ex principali portavano in tutta l'America, comincia a devastare la propria casa, perché dentro la propria casa lui ha il nemico, ce l'ha fisicamente il nemico, e quella è una scena in cui Haynes mette tutto se stesso anche come cifra stilistica, e dimostra che un grande regista può senza problemi raccontare una storia che non è nelle sue corde, può assumere su se stesso uno stile che non è il suo, ma riuscire a dargli comunque la propria impronta. Ne esce fuori, secondo me, un film bellissimo, un film che dimostra che il genere del cinema civile è eterno nel momento in cui tu sai girarlo, sai raccontarlo, e speriamo che abbia più fortuna degli altri che ho citato, perché ci serve anche a noi come spettatori, come cittadini, come consumatori, per diventare più consapevoli, per capire che cosa sta succedendo attorno a noi e per capire che anche con un solo piccolo acquisto noi il mondo lo cambiamo e spesso lo peggioriamo. Cattive acque quindi al cinema, linea alla regia, fra poco la commedia italiana, La mia banda suona il pop, e il cinema invece più d'autore, più delicato, lontano sarà con noi Gianni Di Gregorio. La rosa purpurea. Facciamo una data sola per un magnate russo, San Pietroburgo. La reunion dei popcorn. Ma i soldi? 50.000 a testa. Io vi ho sempre voluto lo bene. Lo sai che sei fico, anche così vecchio. Tu, cantano quelli dei Popcorn, La mia banda suona il pop, il ritorno di Fausto Brizzi, Christian De Sica, Diego Battantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro, da fare da outsider in questo cast da Cine Panettone, che appunto devia in una comicità teoricamente più surreale su quei due nomi. La storia avrebbe veramente tutti gli elementi per fare il botto, perché è la storia di un impresario musicale che riceve una di quelle proposte che non si possono rifiutare, far riunire una band che da 30 anni ormai era sciolta, appunto i Popcorn, sciolta male tra l'altro, con litigi fra i vari componenti, c'è chi fa l'elettrauto, c'è chi vive suonando i matrimoni, e questo oligarca russo dice: vi voglio riuniti al mio compleanno a San Pietroburgo. E chiaramente c'è dentro anche tutta la passione dei russi per la musica più popolare italiana, i successi dei Ricchi e Poveri, di Albano, di Toto Cutugno, da quelle parti. Dicevo, premesse molto interessanti, ma quando si arriva lì il film a quel punto prende un'altra piega, diventa una sorta di non so, spy story, rapina story, fatto sta che heist movie, come si potrebbe dire, fatto sta che, come avete sentito, dietro l'invito c'è un raggiro al quale i nostri dovranno e vorranno partecipare per fare quattro soldi e portare a casa qualcosa di più della pagnotta. Boris, il vero problema, a mio modo di vedere, di questo film è proprio aver mancato completamente le premesse, cioè le premesse e gli ingredienti per andare verso una commedia popolare su un po' sul rimpianto, un po' su questa reunion e far ritrovare un po' alla Immaturi, diciamo così, questi elementi che si erano dispersi nel tempo, e anche magari far lievitare un po' di più il talento di Paolo Rossi e Angela Finocchiaro, che con Non combattutacce da caserma, ecco, si perde nel tentativo alla fine di andare sul cliché cinepanettonesco, che ormai non interessa più a nessuno, tanto che il film è partito malissimo nelle sale italiane. Ma si può dire che la cosa più interessante del film, anzi l'unica cosa interessante del film, sono i testi e le musiche dei Popcorn. Cioè, non stiamo parlando di capolavori, però perlomeno sono godibili, cosa che non si può dire purtroppo del resto del film, che è una sorta di Natale a San Pietroburgo con una confusione in sceneggiatura che tradisce tutto ciò che c'era nel soggetto, perché il soggetto era davvero molto carino, no? L'idea di andare sulla nostalgia canaglia che hanno i russi per un nostro pop che noi magari un po' ridicolizziamo, no? E che usciva anche per esempio nel film di Zalone, il penultimo, e che era molto potente, insomma, come propellente comico. Il punto è che Brizzi però decide di raccontare questa storia appunto con quella comicità grossier che ormai in qualche modo non riesce più a entrare nella testa e nella pancia degli spettatori che si sono abituati a una commedia migliore e che secondo me non ha nemmeno la felicità dei cinepanettoni precedenti. E questo fa sì che ci sono due film diversi, uno appunto prima che si arrivi in loco e uno dopo, e che sono entrambi abbastanza scadenti, perché non sembrano crederci, e in questo è visibile soprattutto nell'interpretazione di Diego Abbandantuono, non sembrano crederci gli attori per primi, che lavorano ognuno per conto suo, non riescono a trovare un'amalgama, hanno purtroppo tra le labbra battute che non dovrebbero mai dire, anche per la carriera che hanno avuto e che hanno tuttora. Mi sento di dirvi di non andarlo a vedere, ma di vedere due film che hanno avuto la stessa idea. Uno è Più grandi di tutti, di Carlo Virzì, che in tema di gruppi che si riunivano dopo anni aveva fatto una commedia straordinaria, e l'altra, se volete, un po' una comicità grossier che si lega al Life Movie col Poco Abbo a Milano. Sicuramente vi divertirete di più. Giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Marco, sono qui! Di cosa stai parlando? Sono qui! E allora, ancora una volta, se avete individuato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due Blu-ray che vi aspettano, e fra poco sveleremo il titolo di questo nostro film misterioso. E adesso andiamo lontano, lontano. L'ho sentito curioso che ci stanno un sacco di pensionati che vanno a vivere all'estero, dice che si campa meglio. Però tu la pensione non ce l'hai. Posso decidere di partire pure senza la pensione, no? Oh, io sono cittadino del mondo! Andiamo, però andiamo. Le Azzorre è un arcipelago dell'Oceano Atlantico. È il posto perfetto per voi tre. Ma sai qual è il problema? Che ogni anno per noi poracci va sempre peggio. Ma perché sei un poraccio, te papà? Sono le parole di Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio con Giorgio Colangeli, lo stesso Gianni Di Gregorio come sempre protagonista dei suoi film, Daphne Scoccia, e poi avete sentito riconosciuto anche per esempio Roberto Erlizka. La storia è e il compianto, come dicevamo, Ennio Fantastichini alla sua ultima prova. Prima di lasciarci, come sempre, ambientato in una Roma tenera, dolce, che guarda i suoi cittadini quasi con affetto, e quella è lo sguardo di Gianni Di Gregorio, la storia di tre amici pensionati, amici da sempre, che dividono la loro vita fra un bicchierino di vino e una passeggiata a Trastevere, e discutono di una pensione che non basta mai, come avete sentito. E lì l'idea, che è un'idea tratta dalla realtà, l'avete sentito anche voi sicuramente, spesso nei TG si è parlato di questo fenomeno degli italiani che vanno a far valere la propria pensione dove magari il clima è gentile e i soldi valgono qualcosa di più. E parte quest'idea di un viaggio, quest'idea di andare lontano lontano, come dice il titolo, che poi è più un'idea che qualcosa che si possa davvero concretizzare, e lo vedremo durante il film, senza spoilerare, come si dice. Boris, denuncio il mio amore per il cinema di Gianni Di Gregorio, da Pranzo di Ferragosto a Gianni e le donne, un cinema dolce, gentile, come dicevo, dal tocco delicato ma molto molto profondo, dove tutto sembra accadere in maniera naturale e tutto invece è perfettamente scritto. È sempre innaffiato da del vino bianco, perché insomma quello non manca mai. Denuncio anch'io il mio amore per quel tipo di cinema. A me i film di Gianni Di Gregorio mi hanno sempre fatto pensare a qualcuno che aveva visto la prima Roma verdoniana e ci abbia raccontato le storie laterali, quelle che Verdone non ci ha raccontato, perché gli ambienti sono quelli e ti immagini tutti i personaggi che non ha trattato Carlo Verdone, che se li prende Gianni De Gregorio, no? Magari quelli un pochino più vecchi, quelli un pochino più marginali, perché c'è quella sensibilità, anche se poi la comicità è meno come dire esplosiva ed è molto più delicata ed è molto più divertita, oltre che divertente, ed è anche molto più affettuosa. È una storia straordinariamente universale, pur mantenendo la sua identità molto forte, quindi sicuramente è un film da promuovere. Ed è da promuovere anche questo stile che un po' ci manca, la dolcezza nel cinema italiano la stiamo un po' perdendo, e quando c'è, come nel caso di Gregorio, bisogna proteggerla. E allora, questo è Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio. Boris, noi ci sentiamo la settimana prossima. Alla prossima settimana, buon cinema. E invece ascoltiamo l'intervista con Gianni Di Gregorio e Giorgio Colangeli, che ci raccontano proprio come è nata l'idea di questo Lontano Lontano. Guarda, devo dirti la verità, l'idea me l'ha proprio data Matteo Garrone, che mi conosce bene, e mi ha detto: tu devi fare un film su un pensionato povero che realmente è costretto ad andarsene fuori, e se non lo fai tu, che sei appunto specialista di vecchietti, di pensionati, chi lo fa? Si rischia di non farlo. E quindi è nata questa cosa, mi è piaciuta moltissimo. C'è stato un anno e mezzo di scrittura, di lavoro molto grosso sulla sceneggiatura. E poi ha avuto la fortuna di avere questi attori pazzeschi, appunto Giorgio Colangeli e Ennio Fantastichini, che oggi purtroppo ci manca tantissimo, il fatto che non sia qui è un grande dolore. Però ho visto che il film stava diventando vero, gli hanno dato loro una forza, una... e quindi il film mi è un po' scivolato dalle mani, è andato come, sai, come quando metti in moto e non ti rendi conto che stai già viaggiando. Come, devo dire, caratteristica tipica del tuo cinema questo, cioè sembra che tutto nel cinema di Gianni accada naturalmente, no? Sembra quasi di mettersi a guardare un tranche de vie, dici guarda che quelli che vivono, e vivono, perché i tuoi personaggi vivono, e loro che sono attori naturali chiaramente lo sanno. Si parlava prima di pensionati poveri, il tuo personaggio è proprio male in arnese, è proprio quello messo peggio del trittico, così come ti sei ispirato, come l'hai interpretato? Beh, devo dire che nella scrittura c'era già tanto, quella naturalezza che tu dici tipica di Gianni, no? Nella concatenazione degli eventi che racconta, è già il risultato di una navigata tecnica della scrittura e della narrazione, no? Per cui questa naturalezza ti fa mettere in evidenza appunto l'arco narrativo, le caratteristiche dei personaggi, per cui gran parte del lavoro in un certo senso è già fatto. Io ho avuto un'ulteriore fonte di informazioni, sempre da Gianni, che il personaggio di Giorgetto è ispirato a una persona realmente esistita a Trastevere, molto popolare, che si chiamava Ervi Gingo, A cui sono ancora oggi intitolati dei panini nei bar di Trastevere, una sorta di filosofo di strada, una persona che non ha mai fatto nulla nella vita, però ai suoi funerali, me l'ha raccontato Gianni, c'erano 2000 persone. Leggendo queste note che Gianni mi aveva dato, commoventi in certi momenti, parlandone con lui, io mi sono fatto l'idea che Giorgetto, in quanto vichingo, in quanto ispirato al vichingo, dovesse essere un personaggio di quelli che chiudono il cerchio, cioè che sono vecchi ma sono bambini. Sai quei percorsi che tu ritorni dove, da dove sei partito. E il vichingo era un puro, diciamo, cioè uno che non aveva bisogno di nulla per vivere e che quindi non chiedendo nulla poteva dare tutto. Dava per esempio ascolto per essere così conosciuto. Uno che sta seduto al bar e parla o ascolta, vuol dire che quando ascoltava ti dava la sensazione di essere proprio a tua disposizione. Lui stava lì e ti ascoltava. E guarda che l'ascolto è una delle cose più preziose, perché nessuno, ma nemmeno gli amici. Tu agli amici certe volte racconti delle cose e loro non vedono l'ora di parlare a loro volta, e però parlano delle cose loro, cioè non ti hanno ascoltato. Cioè, il tuo discorso gli è servito solo per trovare delle cose che si potevano dire dopo quella che hai detto tu, ma che non hanno rapporto, e soprattutto denunciano il fatto che non ti hanno ascoltato. Quindi un personaggio così. È proprio un paese da cui provare a scappare, questa Italia? Purtroppo, bisogna dire, ci sono degli elementi così, né appunto gli anziani, ma neanche i giovani stanno granché. Io spero che invece qualcosa migliori, se noi ci mettiamo tutti di impegno possiamo migliorare, per cui rimanere nei nostri baretti, nei nostri bar. Giorgio, parafrasando Shakespeare, che diceva che il viaggio è più importante della meta, no? Cioè che è il viaggio stesso, l'essenza del viaggio, nel film e nei vostri personaggi potremmo dire che è la preparazione del viaggio l'essenza del viaggio. Assolutamente, loro partono sulla base di indicazioni talmente vaghe che è evidente che non gli interessa tanto arrivare da qualche parte precisa, ma muoversi, andare e scoprire. Tanto la loro esperienza di vita gli ha già molte volte dimostrato che poi la cosa veramente interessante è quello che incontri per la strada, cioè sarebbe stupido, cioè, partire con l'idea di andare a mangiare proprio in quel posto e non fermarsi davanti a un'osteria che te capita lì e che magari mangi molto meglio di là. Cioè, conviene fare questo nella vita, cioè andare proprio improvvisare, rispondere, ascoltarla la realtà piuttosto che cercare di farla a nostra immagine, perché poi lì ti sbagli sempre, lì poi ti vieni smentito, lì è proprio questa l'esperienza che fa di una persona matura e anziana quasi un bambino. Il bambino è disarmato perché ancora non ha le armi, l'anziano è disarmato perché ha capito che le armi non servono a niente. Gianni Di Gregorio, Giorgio Colangeli, lontano, lontano nelle sale cinematografiche italiane, andatelo a vedere perché è davvero molto molto interessante e divertente. Linea di nuovo alla viabilità, fra poco di nuovo insieme per parlare di un altro film, molto brevemente, che arriva nelle sale, il musical Cats, e poi ascoltare un assaggio dell'intervista che ci ha rilasciato Carlo Verdone, che sentiremo nella versione più completa la prossima settimana. Fra poco. La rosa purpurea. Stasera sceglierò il gatto che merita una seconda vita. Andare al ballo può essere pericoloso. Andiamo! Balliamo! Io giudico un gatto dalla sua anima. E la mia anima canta. Luce in scena e rullo di tamburi. E avete sentito le note e le parole di Cats, il musical che diventa film per la prima volta dopo tanti anni di successo nel mondo dello spettacolo teatrale, che ha veramente incantato per ormai decenni. Pensate che è dell'81 lo spettacolo, quindi sono praticamente 40 anni che miete successi ovunque: Londra, New York, Italia, Milano è stato rappresentato 3 volte, e però arriva finalmente il film. Tutti hanno pensato finalmente il film, doveva uscire il giorno di Natale, poi fu spostato all'ultimo momento in uscita appunto in questa data di febbraio. Non abbiamo avuto il modo, tra l'altro, e questo doveva dirci qualcosa, di vederlo in anteprima stampa, il che forse ci faceva pensare a un'uscita della Universal abbastanza tiepida, ecco, rispetto a questo Cats. Vedendolo in sala dobbiamo avere delle conferme di questa nostra sensazione, perché pare che il film, insomma, di Tom Hooper, tra l'altro uno specialista del genere, con James Corden, Judi Dench e alcuni specialisti del musical, come per esempio Jason Derulo o Jennifer Hudson, insomma, non abbia suscitato gli entusiasmi che ci si aspettava. Cats è comunque nelle sale per tutti gli appassionati dei gatti Jellicle, per tutti gli appassionati del musical, è comunque un film da vedere, perché è veramente una pietra miliare della storia del musical, è fatto di una grandeur visiva notevolissima, però molto molto tenue nell'aspetto narrativo e della sceneggiatura. È un adattamento che, insomma, è un po' un trionfo della motion capture, però non è riuscito ad arrivare forse nell'anima degli spettatori, come invece lo spettacolo di Grisabella e compagnia faceva dalle assi dei palchi teatrali. Cats, quindi, che chiude un po' le proposte di questa settimana per il cinema, ma ci proiettiamo un attimo, mettiamo una finestra sulla prossima puntata, perché uscirà in settimana il film di Carlo Verdone, Si vive una volta sola, una commedia con lo stesso Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Carlo Verdone è venuto a trovarci qui in radio alla Rosa Purpurea. Settimana prossima vi faremo ascoltare questo incontro molto, molto lungo e molto divertente, devo dire, con Carlo Verdone, però noi vogliamo anticipare una sorta di teaser, una traccia che ci porti verso l'uscita del film il prossimo 26 febbraio. È una grandissima necessità di non solo di curare più la regia, ma di agire anche con altri attori bravi e possibilmente con i quali non avevo mai lavorato. Certo. E infatti non avevo mai lavorato né con Anna Foglietta, né con Max Tortora, né con Rocco Papaleo. Fra l'altro il film ha avuto un tale bel clima, un tale feeling che praticamente si è formato tra di noi, che siamo restati veramente molto amici, che in genere è una cosa che un po' rara, bellissimo. È una questa cosa che ha molto a che fare, tra l'altro, col tuo film, questa, cioè con un senso di amicizia che va oltre la superficie, perché i tuoi protagonisti del film sono protagonisti che sembrano essere un po' superficiali, molto dediti allo scherzo, molto, molto così, e poi invece trovano un gancio molto, sono, molto sono reale. Sono dediti allo scherzo, perché in realtà, oltre ad essere un'equipe chirurgica di primissimo livello, quindi nel loro lavoro sono bravissimi, però il problema è che nella vita privata hanno un sacco di problemi e hanno un sacco di difficoltà. Allora, questi problemi, queste difficoltà che riporta a una sorta di solitudine, piano piano incominci un po' a diventare insofferente e qualcuno insopportabile. Allora piano piano tutta la nostra attenzione si sposta sul povero anestesista interpretato da Rocco Papaleo, che viene lapidato piano piano sempre di più di scherzi atroci. Quindi ritorno un'altra volta un po' come un po' bambini, certo, un po' infantili, ma è anche una reazione alla vita dura che fanno, perché tutte la mattina aprono, chiudono, la maggior parte la salvano, però anche è un lavoro molto faticoso senza orari loro. Settimana prossima, quindi, l'appuntamento con Carlo Verdone. Vi ricordo, tra l'altro, che il 25 di febbraio al Cinema Anteo alle 17 del pomeriggio sarà possibile chiacchierare con Carlo Verdone in una lezione di cinema con Carlo Verdone e tutto il cast di Si vive una volta sola, che avrò anche l'onore e l'onere di moderare. Noi a questo punto andiamo avanti con tutto il cinema da vedere in casa, tornando indietro di 7 giorni. Non chiederò il tuo perdono, perché ciò che ti ho fatto è imperdonabile. Mi ero smarrita nell'odio e nella vendetta. Avevamo giocato con Maleficent, la signora del male. I più bravi e veloci ad indovinare sono stati Andrea Cristiani di Alessandria e Massimo Risso di Genova, e saranno loro a ricevere il Blu-ray di questa edizione Disney di Maleficent, il sequel di Maleficent, appunto La Signora del Male, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Diciamolo, ormai nemmeno il regno delle fiabe scampa alle fake news, ed ecco che Malefica, nonostante la riabilitazione avvenuta nel primo e molto remunerativo capitolo, è considerata ancora signora del male. L'equilibrio precipita quando la sua figlioccia Aurora decide di sposare l'inutile principe Filippo e da lì per una catena di eventi si scatenano intrighi di palazzo, complotti magici e noi vediamo allegorie geopolitiche e lunghe sequenze di battaglia con scialo di iperdettagliata computer grafica. Soprattutto direi che svetta un trio di grandi attrici, Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer. Blu-ray ottimo, devo dire veramente impagabile il disco 4K e extra 20 minuti tra videoclip, featurette e scene estese. E questo era il nostro game della scorsa settimana. Giulio, diamo un'occhiata invece ai palinsesti televisivi della prossima con una segnalazione molto particolare, un film del 1967 diretto da Ugo Tognazzi che si intitolava Il fischio al naso. Il fischio al naso è quello di cui soffre un industriale che si trova in una lussuosa clinica privata e viene convinto al ricovero, ma forse non riesce più a uscirne. Dottore, scusi? Dottor Salamoia. Dottor Salamoia? Sì. L'avverto che la battuta «Gli ammalati del terzo piano sono sotto Salamoia» la dicono dal 1957. Sì, ma sì, grazie. Scusi, sì, lei è al terzo piano? Sì, io sono addetto al terzo piano. Ma perché continuano a cambiare medico? Io vorrei sapere. Uno non fa tempo a farsi un'amicizia. Ma guardi che molti piani, molti amici. Perché lei non può diventare mio amico? Tratto da un racconto di Dino Buzzati, Sette piani è un film godibile, graffiante, una satira al nero del malcostume sanitario del bel paese. La descrizione per via di questo racconto kafkiano di un'industria della malattia che porta la società dei consumi anche dentro la medicina, che dovrebbe invece preservare e conservare l'uomo. Scritto e diretto da Ugo Tognazzi, che fu anche regista veramente degno di interesse, con Raffaele Azcona, collaboratore abituale di Marco Ferreri, che qui troviamo nel ruolo d'attore e che è chiara fonte di ispirazione per Tognazzi di questo film. Ricordiamo l'appuntamento, Giulio, per Il fischio al naso, martedì 25 febbraio su Cine 34 alle 17.05. Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine quindi della nostra trasmissione, della nostra puntata della Rosa Purpurea. Come sempre, alla fine i titoli di coda scorrono sulla rivelazione del titolo del nostro film misterioso di oggi. Si trattava della famiglia Addams nell'ultima versione, quella animata di questa stagione. I due Blu-ray saranno assegnati la prossima settimana. Con noi ci sarà Carlo Verdone. Vi ricordo ancora l'appuntamento al Cinemanteo il 25 nel pomeriggio, lezione di cinema con Carlo Verdone e tutto il cast di Si vive una volta sola. Un saluto da Franco D'Assisi.